Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Maurizio Landini, 53 anni, reggiano, ha iniziato a lavorare come apprendista saldatore in una cooperativa metalmeccanica. Entra nella Fiome e a Reggio Emilia diventa segretario. Dal 2005 è nell'apparato nazionale. Come segretario nazionale è stato responsabile nel settore degli elettrodomestici. Si è occupato dei gruppi Electrolux, Indesit e Piaggio. Dal 2010 è segretario dei metalmeccanici della CGIL. Adesso è in guerra con la Camusso. Si dice che abbia un rapporto privilegiato con Renzi e glielo chiederemo. Ma intanto tutti sanno che fa vita spartana e quando viaggia in treno lo fa sempre in seconda classe. Allora Landini, viaggiare in seconda classe aiuta a far meglio il sindacalista? Sì, perché il sindacalista deve vivere come le persone che vuole rappresentare, quindi deve sapere quali sono i bisogni delle persone che rappresenta e rimanere coi piedi per terra. Senta, Renzi dice ai sindacati: pubblicate i vostri bilanci. Lei lo ha fatto, soddisfatto, no? Sì, per la verità noi lo pubblicavamo anche prima che ce lo dicesse Renzi, e in più noi abbiamo pubblicato anche le nostre buste paga, compresa la mia busta paga. Quanto guadagna lei? Io guadagno 2.250 euro netti al mese e noi viviamo con i soldi che ci danno i lavoratori. Senta, risulta dal bilancio 844.000 euro di debiti nei confronti della CGIL. Insomma, poveri sì, ma poi paga pantalone. No, noi lo stiamo restituendo quel prestito che la CGIL ha già fatto. La Camusso non copre il debito? No, ma è giusto, se uno ha contratto dei debiti, come se uno va in banca, fa un mutuo, paga. Vabbè. E noi stiamo restituendo ciò che dobbiamo restituire. Senta, intanto lei comunque, debito no, ha rotto con la Camusso e non ha sottoscritto l'accordo tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria sulle regole per la rappresentanza in fabbrica. Vuole uscire dalla CGIL? No, nel modo più assoluto. Noi siamo perché venga introdotta la democrazia in CGIL, la democrazia nel rapporto tra il sindacato e il lavoratore. Non c'è democrazia in questa CGIL. È una struttura, secondo me, poco democratica, che deve cambiare, deve rinnovarsi, e c'è il problema che i lavoratori debbono avere il diritto sempre di poter votare sugli accordi. Senta, ma sembra anche un pretesto per la lotta di potere per la segreteria questo. No, non c'è nessuna lotta di potere. Non vuole fare il segretario lei? Io voglio fare il segretario generale della FIOM. Quello che vedo è la CGIL e il sindacato in crisi, e secondo me bisogna cambiare, ed è una discussione tra modelli sindacali diversi. Senta, comunque il vostro rapporto con la Camusso, forse per queste ragioni, mi sembra al limite dell'insulto, è irrimediabile? No, non è vero, è un confronto di merito, non è una questione personale. Per me è importante discutere del futuro. Ma vi siete anche trattati con molta durezza, anche in pubblico? Ma no? Io ho sempre avuto rispetto, per me lei è il segretario generale della mia organizzazione. Quando non sono d'accordo, credo sia giusto dirlo e battersi per le proprie idee. Senta, che cosa non le piace di lei come persona? Per me, io giudico come si fa il segretario generale e penso appunto che le decisioni non possono essere prese da solo, c'è bisogno di coinvolgere tutti i soggetti. La critica, e lei vuole decidere da sola invece? Per esempio sull'accordo, la critica che ho fatto, io ho imparato da internet che era stato fatto un accordo che riguardava le regole, il ruolo dei sindacati e quindi anche della FIOM. Senta, a proposito del ruolo dei sindacati, cosa ha detto la Camusso alla nostra domanda? Un giovane al telefono l'altro giorno ci ha detto: i sindacati non mi interessano perché non hanno mai fatto nulla per me. Terribile, però forse ha ragione. No, non credo che abbia ragione. Lui ci ha anche detto: nella vita non bisogna fare progetti, altrimenti ti cade il mondo addosso. Ecco, questi milioni di giovani disoccupati, il mondo è caduto addosso per sempre. Questa loro opinione è la nostra sconfitta, la sconfitta delle generazioni precedenti. E credo che l'unica forma di riscatto, se così si può dire, è di non far sì che la loro assenza di progetto di oggi diventi la loro sorte per tutta la vita. Lei avrebbe risposto diversamente? Sì, io avrei detto a quel giovane che il sindacato è lui, o che entra lui nel sindacato per cambiarci, o nessuno può farlo al suo posto. Non sono io il sindacato sono le persone che insieme che decidono di cambiare la loro condizione. Ecco, ma se la CGIL è però un sindacato con la maggioranza di pensionati, 3 milioni su 5 milioni e 8, che cosa può aver da dire a questo giovane? Di entrare, nient'altro. Beh, non solo, la CGIL facendo entrare i giovani e rinnovandosi apre le condizioni per cambiare. Che però non ci sono per adesso, nella FIAM ci sono? Certo, ci sono tanti giovani che sono iscritti, c'è un'età media anche bassa, non è vero che non ci sono, le fabbriche sono piene di giovani. Poi è vero che la maggioranza delle persone che lavorano non sono iscritte a nessun sindacato. Questo è il punto. Senta Landini, ma c'è un punto di contatto, un interesse comune tra gli operai di Pomigliano, di Mirafiori, che lei in parte rappresenta, e i precari, come questo ragazzo che ci ha telefonato, che magari lavorano nei call center? Sì, è quello di potersi realizzare nel lavoro che fanno e avere un lavoro che dà diritti. Per fare il proprio dovere c'è bisogno di avere i diritti e di potersi realizzare come persona. Questo per me è il punto di fondo che unifica la condizione di chi lavora. Ecco, ma lei non pensa che forse quel precario non pensa che il sindacato difende solo chi è garantito e non lui? Assolutamente sì, anche perché oggi non ci sono diritti uguali per tutti, oggi c'è una frantumazione, c'è una crisi del sindacato. Certo che ci sono degli errori, che quello che ha fatto il sindacato in questi anni, i sindacati in generale non hanno affrontato questo tema. Si sono chiusi in loro stessi. C'è stata una difesa corporativa, in alcuni casi si è scaricato sui giovani, molto spesso poi la precarietà è stata subita anche sul piano politico. Ma lei parla però come se gli interessi dei metalmeccanici in qualche modo coincidessero davvero con quello degli altri lavoratori. Però non è così. No, mica vero. Io penso che chi per vivere deve lavorare ha tutto l'interesse che non ci sia una competizione tra le persone che lavorano e di poter avere diritti che gli permettono di realizzarsi nel lavoro che fanno. Questo, secondo me, è il compito del sindacato. Senta, per tutto il Novecento la fabbrica è stata un luogo dove si realizzava l'emancipazione umana, politica e culturale dei lavoratori. Oggi è così, non mi pare. Ma oggi è cambiata la fabbrica, è cambiato il modo di produrre, è cambiato il prodotto. Però il fatto, insisto, che le persone nel lavorare e nel produrre si realizzano, a prescindere dalla fabbrica, e chi produce la ricchezza è ancora chi lavora, questo è stato cancellato. Questo però è stato culturalmente e nei fatti cancellato. Non a caso oggi chi lavora è povero pur lavorando. Senta, Renzi dice che lui si preoccupa di più di quello che pensano le famiglie piuttosto che Confindustria, Confederazioni Sindacali, eccetera. Ha ragione su questo? Esagera. Lui si pone giustamente il problema di dare delle soluzioni. È vero che c'è una crisi dei sindacati, credo però che una persona da sola non cambi un paese e quindi ha bisogno di coinvolgere e di confrontarsi. Dopodiché il governo ha diritto di decidere. Non sto dicendo che lui deve subire dei veti da qualcuno, però non confrontarsi. Per cambiare questo paese c'è bisogno dell'intelligenza di tutti. La concertazione era un'altra cosa, insomma. Che cosa le piace di più di Renzi, se c'è qualcosa che le piace? Beh, mi piace la velocità e la voglia che ha di cambiare, quindi colgo in lui un elemento nuovo molto che sarebbe forte. Sbagliato non cogliere e che chiede a tutti un cambiamento. Poi c'è il problema del merito, di che cosa si fa e su quello ci sono. Di meno cosa le piace finora? Beh, i provvedimenti che ha fatto sul mercato del lavoro sono l'opposto di quello che aveva annunciato adesso. E non mi sembra che allargare la precarietà si risolve il problema dei giovani. Senta, ma se le dicono che lei è Renzi del sindacato perché come lui vuole scardinare gli apparati, su questo punto è d'accordo? Ma io penso che ci sia bisogno di cambiare il sindacato e penso che ci sia bisogno di fare una battaglia per renderlo più democratico. Sì. In questo senso sì, le cose che sto facendo vanno in questa direzione. Vanno nella direzione di Renzi. Senta, il ministro del lavoro Poletti, per conto del governo, dice basta concertazione, il governo deciderà, poi sarà giudicato. È la strada giusta, un po' l'ha detto. Ma è la strada giusta, deve però sapere che se non si confronta, se non verifica prima quello che ha in testa, può trovarsi anche di fronte a dei problemi, perché io sono perché il governo decida, ma sono anche che se il governo fa delle cose che sono sbagliate, reagisce, contro i lavoratori, è giusto anche mobilitarci, certo. E fargli cambiare idea in modo democratico. Senta, ma se potesse dare un consiglio a Poletti, un consiglio preciso, cosa gli direbbe? Che se fa il ministro del lavoro deve pensare appunto a un'idea precisa, il lavoro o ha dei diritti o non è un lavoro. Senta, il ministro Madia vuole prepensionamenti nella pubblica amministrazione per aprire giovani, è una strada? Beh, bisognerebbe farlo anche nel privato, anche perché vorrei far notare, aver portato l'età pensionabile a 70 anni, puoi dire che si fanno i prepensionamenti, si fa ridere, il problema è abbassare l'età pensionabile. Beh, non l'ha portata questo governo. Lo so, però dire adesso prepensionamenti, abbassino l'età pensionabile come hanno fatto in Germania, cioè la follia aver fatto una riforma delle pensioni che ha portato a 70 anni, certo che aumenta la disoccupazione, ha cancellato le pensioni d'anzianità, non c'è futuro per i giovani, è la riforma delle pensioni in quanto tale che va rimessa in mano, in discussione. E oggi c'è il problema non solo nel pubblico, c'è il problema anche nel privato di far andare in pensione la gente dopo 40 anni di lavoro. Senta, ma la mobilità orizzontale obbligatoria può rendere più efficiente la pubblica amministrazione? Ma c'è un problema, credo ci sia questo può essere uno strumento su cui discutere di riorganizzazione, ma penso che ci sia anche un problema, si potrebbe dire, più Steve Jobs e meno Cottarelli, cioè c'è bisogno proprio anche di una riforma che riguarda proprio il sistema, l'informatica, lo dico perché nel nostro settore metalmeccanico abbiamo gli informatici che lavorano anche per la pubblica amministrazione, quindi ridurre i costi, rendere meno burocratica, più veloce, vuol dire anche una mobilità orizzontale. Mobilità orizzontale è una cosa diversa. No, ma io sto dicendo che le vedo tutte e due. Non è solo spostando le persone, problema che può esserci. Penso che c'è proprio un problema di riorganizzazione complessiva di come si lavora anche dove non fai la mobilità. Ecco. Senta, Landini, la liberalizzazione di fatto del contratto a termine per 36 mesi, come è stato fatto, proposto dal governo, non le piace? No, perché in questo modo... Perché a quel punto lì la prospettiva è il contratto a termine. Uno deve avere chiaro qual è la prospettiva. Il contratto a tempo indeterminato oppure no? Anche perché se un giovane con contratto a termine va in banca, il mutuo non glielo danno. Beh, dovrà cambiare la banca anche a un certo punto. A un certo punto sì, però se sono il modello anche, è quello. Però penso anche che uno non può aspirare a fare il precario tutta la vita. No, beh, certo, quindi... dipende da quale sarà il modello di sviluppo, perché se ci sarà sviluppo la mobilità può essere assorbita continuamente. Se sì, no, però essere sempre precario, cioè essere sempre a termine, quindi sotto il ricatto che non sai se lavori o no, alla lunga secondo me non funziona. Si è parlato del contratto unico, ecco, allora bisogna decidere che cosa si fa, non si possono aumentare il numero dei rapporti lavoro. In Italia ce ne sono già anche troppi. Anzi, ma quindi col governo Renzi su questo punto scontro? Su questo punto io non sono d'accordo e non penso che i contratti a termine, ma anche sull'apprendistato, visto che ho cominciato da apprendista, quindi so cosa vuol dire, so cosa vuol dire, non mi sembra il modo utile di partire per affrontare la situazione di una riforma del mercato del lavoro che va fatta. Quindi non siamo d'accordo con Renzi qua. Su questo punto? No. Senta, lei è favorevole all'introduzione del salario minimo e l'abolizione della cassa integrazione in deroga? Sul salario minimo sì, e penso che debbano essere i minimi dei contratti nazionali che diventano per legge il livello sotto il quale non si va. E l'abolizione della cassa integrazione in deroga? In una riforma del sistema sì, io penso che bisogna estendere la cassa integrazione a tutte le forme di lavoro e a tutte le aziende facendo pagare lavoratori e imprese, e poi penso a un nuovo istituto che è il reddito minimo garantito che accompagni chi non ha lavoro ma anche il diritto allo studio. Oggi il figlio di un operaio o di un lavoratore quindi dipendente non può studiare. Certo. Senta, Renzi parla, l'abbiamo detto, parla del contratto unico vincolato a poche regole che in fondo di fatto apre alla contrattazione aziendale. Non va bene neanche questo per scardinare gli apparati? No, io il contratto unico, se si cancellano le altre forme di lavoro, io sono d'accordo. Il punto è che non può essere, abbiamo 46 diverse tipologie, poi adesso diventa un 47. Contratto unico, poche regole e contrattazione aziendale? Ma il contratto unico, io sono per semplificare, ce ne sono troppi dei contratti nazionali. Ma la contrattazione aziendale? Io non ho contrarietà alla contrattazione aziendale, purché rimanga, non diventa l'azienda il luogo in cui fai le norme. Ci sono dei diritti generali che debbono essere sentiti dal contratto. Io sono per il contratto dell'industria, per il sindacato dell'industria, per la contrattazione aziendale o di sito, di filiera. Oggi, diceva lei prima, è cambiata la fabbrica, non è più come una volta. Esatto. E allora c'è bisogno anche di una modifica in questa direzione. Quindi su questo punto scontro non ci sarà. Senta, ma lo sciopero serve ancora, secondo lei, come strumento di lotta? Assolutamente, è l'unico strumento che le persone hanno. In Electrolux, ad esempio, in questi mesi che ci volevano abbassare il salario, se non c'era stato il blocco delle portinerie, se non ci fosse stato lo sciopero dei lavoratori, la multinazionale non avrebbe cambiato idea. Senta, qui a Mix24, Bonanni, della CISL ha detto che Renzi ha in testa un modello come quello di Chavez. È un buon modello secondo lei? Ma a me non pare che abbia in testa il modello di Chavez, no. Vedo più altri modelli. Tipo? Ma vedo di più l'idea di un modello sociale più americano, vedo di più il riferimento a cose che ha fatto in Europa Blair, ecco. Mi sembrano più cose vicine a noi che non di altri paesi. A proposito di modelli, lei è favorevole alla cogestione dell'impresa sul modello tedesco o no? Io penso che il problema della partecipazione dei lavoratori va affrontata soprattutto sulle sette. La gestione, perché la cogestione prevede il loro ingresso nei consigli di amministrazione. Quello è un punto che può essere valutato, non ho contrarietà di principio. Non ho contrarietà di principio. Penso che sia un tema su cui porsi, perché questo vuol dire un cambiamento anche per le imprese, certo, che finora non hanno mai accettato quando si è chiesto di poter discutere. Molti non lo vogliono. Io penso che sia un tema che noi ci dobbiamo porre. Senta, se fosse stato il capo del sindacato americano, apposta che proprietario era proprietario del 41% della Chrysler, lei l'avrebbe venduto quel 41% a Marchionne? Beh, di sicuro loro lo dovevano fare per diversificare, siccome gli serve per il fondo pensioni e il fondo sanitario, loro non possono dovevano farlo. Per tutelare i suoi iscritti, assolutamente sì. Quindi ha fatto bene. Senta, lei in sostanza che pensa di Marchionne? Questa operazione americana le sembra buona o no? Per l'Italia, secondo me, no. Dimostra che ormai la testa, le produzioni sono là. Su 4 milioni e mezzo di auto che il gruppo ha fatto, in Italia se ne sono prodotte solo 400.000. Ecco, quindi... ma lui dice, in Italia adesso facciamo i nuovi modelli Alfa e Maserati e tutti gli operai rientreranno. Lei ci se crede? Se si fanno solo i modelli alto di gamma non si dà da lavorare a tutti. No. Guardi la Volkswagen, la forza della Volkswagen è fare dalle app alle auto che costano 300.000 euro. Quindi qui non ci crede? No, non è che non ci credo. Se quelli sono i progetti... L'ha detto lui, sì, che il progetto è quello. No, ma se con Alfa e Maserati non si dà da lavorare a tutti gli stabilimenti, a tutti i lavoratori italiani. Ma lei pensa che Marchionne è un manager globale che ha vinto una sfida storica in qualche modo perché la Fiat era fallita o giù di lì, o ha solo assicurato dividendi a sé e alla famiglia Agnelli? Beh, alla famiglia Agnelli sicuramente gli ha assicurato i dividendi e lui l'obiettivo che aveva in testa lo ha realizzato. Il vantaggio per l'Italia, sinceramente, per i lavoratori italiani, non lo vedo. No. Senta, Marchionne guadagna molto, si sa. Adesso si discute molto sugli stipendi dei manager pubblici in Italia. Devono avere un tetto, secondo lei? Sì, penso assolutamente perché? Perché c'è un elemento anche di giustizia sociale e bisogna tornare alla realtà. E c'è un problema di professionalità del rapporto pubblico-privato rispetto ai talenti, diciamo, quindi alle competenze o no? Ma questo esiste, anche se in questi anni dietro a questa storia si sono anche scoperte delle cose folli, cioè le stock option in alcuni casi sono una cosa che ha fatto saltare le imprese, certo. No? E io non penso a questa idea che c'è uno da solo che risolve i problemi, a me questa cosa non mi ha convinto, né in politica, continuo a pensare che il collettivo, sono le persone assieme che possono cambiare. Uno poi deve decidere però. Non c'è alcun dubbio, però il problema è che è il processo anche delle decisioni, come si partecipa. Sì, certo. Poi ci sono certo delle responsabilità, ma... Senta, ma Moretti quindi alla ferrovia ha torto a resistere? Ma sui... io non giudico lui come dirigente. No, dico lui come battaglia che sta facendo. Ma questa idea che se uno che prende 850.000 euro, che se gli abbassano qualcosa dice che se ne va, a me non è piaciuto molto, anche perché con la situazione che c'è... Dovrebbe avere rispetto di chi vive anche con 1.500 euro al mese. Lei ha scritto a Renzi che ogni euro pubblico a favore delle imprese deve essere vincolato a quanti posti di lavoro si difendono oppure si creano. Lei difende le piccole e medie imprese, però hanno bisogno di flessibilità, di molta flessibilità per seguire i mercati. Allora, più salari e meno diritti, va bene o no? No, anche perché in questi anni la flessibilità c'è stata, non è che nel nostro paese non c'è stata e non è che dove però c'è il sindacato... Però le piccole medie imprese ne hanno bisogno in assoluto per seguire i mercati. Ma guardi che la FIOM è il sindacato che è più presente nelle piccole e medie imprese, perché in Italia, come lei lo sa, ci conoscono, noi abbiamo molti iscritti, facciamo molti accordi e quindi questa idea della rigidità sindacale a prescindere a volte è una favola. Una favola, senta, ma è cancellare i contratti precari e rendere più facili i licenziamenti? Questo scambio va bene o no? No, abbiamo già visto che non serve a nulla. L'articolo 18 l'hanno già modificato, sono aumentati i licenziamenti, ha visto lei più investimenti. Ma c'è anche la crisi, Sì, ma non è questa la strada. Un imprenditore, io parlo con gli imprenditori, certo, il suo problema non è che non è possibile licenziare i lavoratori, il problema è che oggi il lavoro produrre, non ce l'hanno, certo. È produrre, fare gli investimenti e avere meno burocrazia e poter investire. Stato. Certo. Vabbè, infatti l'abbiamo detto prima. Con la avere meno della... corruzione, avere meno mafia, certo. Questi sono i problemi del nostro Senta, paese. Senta, ma passare dalla protezione al merito... Comunque, è un passo culturale che deve fare anche il sindacato? Però le due cose io non le vedo tra di loro distinte. No, distinte no, ma certe volte la protezione ha reso difficile la scoperta del merito. Secondo me si può, quando si parla... Obiettivamente. Quando si parla di protezione, no, ma io penso che ci siano alcuni diritti che le persone debbono avere per poter far bene il loro dovere. Quindi sì, che non è che io proteggo qualcuno. Questa è la parte positiva. È quello che, da cui partire. Dopodiché il merito deve mettere nelle condizioni tutte le persone di sviluppare il proprio merito. Senta, ma c'è un nuovo... Se no diventano favoritismi, Senta, ma c'è un uomo politico del Novecento che lei considera un suo leader? Ma guardi, io adesso sono sempre stato impegnato nel sindacato e principalmente la mia attività è stata quella. Quando ero giovane andavo nella sezione del PC del mio paese, a me è sempre piaciuto molto Pietro Ingrao perché era uno pieno di dubbi, quindi... Il mio riferimento era anche quando non lo conoscevo, ecco, non capivo le dinamiche politiche, però ma gli piaceva, mi piaceva il modo con cui parlava ed è una persona che io stimo. Certo, e sul piano internazionale qualche riferimento storico ce l'ha? Beh, a me, no, sul piano internazionale, diciamo così, nel mio riferimento c'è stato Mandela negli anni mia di crescita come battaglia di cambiamento, come riferimento, ecco. Ma va al cinema, Ci andavo, adesso un po' devo dire la verità che ho poco tempo e sul piano personale ho pochi spazi ed è un po' che al cinema non ci vado. E l'ultimo libro bello che ha letto? L'ultimo libro, vabbè, ho letto il libro di Gallino su... Ah beh, quindi saggi relativi al lavoro. Leggo dei gialli ogni tanto. Gialli, un po' di gialli mi piacciono. Senta. Basket Montalban mi piace molto e ne ho letti quasi tutti. Senta, le faccio un'ultima domanda. In realtà non è una domanda, ma è un indovinello. C'è un signore che dice: se porti un'idea nuova in Italia, trovi subito 10 obiezioni. Ecco, secondo lei l'ha detto Renzi o l'ha detto Marchionne? Secondo me l'ha detto Marchionne. L'ha detto Marchionne. Beh, quindi, anche lei che è innovatore, praticamente la pensa come Marchionne. Ma ti sono... Io Marchionne non l'ho mai... L'ho sempre preso, penso di essere uno dei pochi che l'ha preso sul serio fin dall'inizio, perché se c'è una cosa che va riconosciuta a Marchionne, che ha sempre detto quello che voleva fare. In tanti hanno fatto finta di capire che non diceva quello che diceva, e in molti casi lui lo diceva e l'ha fatto. Nostro scontro è stato proprio per questo, perché su alcuni punti non eravamo proprio d'accordo. Grazie. Mix 24. Allora, il titolo dell'intervista, Mario? Era bella densa. Landini è anche diverso rispetto a come lo vediamo in alcuni talk. Secondo me è sorprendente, per cui alla fine ti posso dire... Il Marchionne della Fiom. Il Marchionne della Fiom è bello. Io invece, buongiorno, metterei Pietrangelo. I due punti dopo Marchionne, cioè dopo Landini, e la frase chiave: Marchionne, virgola, nemico dell'Italia. Ma no, guarda che secondo me non sarà così. Queste due letture sono molto interessanti. La canzone? Canta poco oggi Pietrangelo. Perché abbiamo bisogno di un sottofondo, abbiamo bisogno di pizzicare, graffiare, strappare alle corde, come con la maestria di Aldi Meola, qualcosa che ci accompagni nel fine settimana, perché finalmente siamo arrivati al fine settimana. Guardate che c'è un lungo venerdì, che bisogna lavorare a parecchio, vero questo, Giovanni? Sì, questo lo sappiamo, andiamo a Bari per la Confindustria, esatto. la nostra quota rosa, cosa dice? Vi faccio sentire una canzone. Questa è una canzone di Nina Simone. È dedicata a tutti quelli che soffrono, che combattono per i loro diritti, le cose che piacciono molto a me, un po' meno a Mario. Vai. E invece c'è dietro una filosofia, cioè dice: noi non abbiamo niente, però abbiamo noi, abbiamo la nostra vita, e quindi ci dobbiamo ricordare che la vita è una grande opportunità. Mamma mia, che quota rosa dolce, che cosa bolle in pentola oggi. Sono sommerso dal miele. Staccatemi questo miele di dosso. Di dosso, Tardelli, ti prego. Vabbè, dai. Tocca a me riportarvi tutti al mondo della realtà. Fantastico. Svegliatevi. Queste sono sveglie, campanacci e cose che dovrebbero ricordarvi Pink Floyd. Time, tanto per cominciare. Beh, ci sono i dati di Banca Intesa che non sono buoni per il 2013, avranno una prospettiva invece di diciamo breve periodo nel 2017, quando vedranno di nuovo l'utile. Però per adesso si chiude con una perdita di 4 miliardi e mezzo di euro circa. Ci sono forti svalutazioni fatte negli ultimi mesi. Nel 2014 dice che venderà, questa è una parte interessante del risico di Poter Italiano, dice che venderà le sue partecipazioni non core, traduzione non strategiche, per un valore di 1,9 miliardi. Tra queste, come tu ben sai Giovanni, per esempio c'è l'Italia e l'RCS. Comincia la battaglia su RCS. Mi do una notizia: intanto la Corte Suprema indiana ha sospeso il processo contro i due marinai italiani, accogliendo un loro ricorso. Bene. Mi sembra una un buona primo notizia. Passo. Un primo grazie passo. Pietrangelo. Giusto per chiudere, quindi RCS significa Corriere appunto della Sera. Vediamo se la banca esce o no da questo. Se la banca capitale. Esce, qualcuno entra. Se la banca esce, qualcuno entra. Vedremo chi entra. Entriamo, vediamo. Va bene. Vediamo un po'. Buongiorno, cadetti. Buongiorno. Grazie. Benvenuti. Senti. Il cammino glorioso che farà di voi l'elite dell'esercito della nostra grande Russia imperiale. Dovete vedere buttafuoco cosa combina in studio. Vabbè, era il barbiere di Siberia, attenzione, di Mikhalkov, ovviamente un grandissimo film, per introdurre cosa? Uno dei nostri temi, e cioè la Russia, il suo risico sul piano geopolitico. Gli Stati Uniti, Obama in Italia che discute di energia. La cosa interessante, allora, cosa dice il presidente francese Hollande? Che Putin è cattivo. E cosa fa la Total, azienda francese del petrolio? Affari con la Lukoil per estrarre quello che si chiama shale oil, cioè petrolio non convenzionale. Quindi alle parole non corrispondono, non corrispondono i fatti. Cosa dice Angela Merkel? Che Putin è cattivo. Peccato che il presidente del gigante tedesco Siemens abbia incontrato mercoledì scorso Putin. Tutti democratici, Giovanni, con i soldi degli altri. Mi sembra che questo Putin abbia argomenti, molti argomenti. Beh, sì, Salamini. Vorrei tanto interrompere la trafila della Berlusconeide, ma non si può perché ogni giorno ne arriva una nuova, e sebbene oggi però c'è una novità, non ricorro a Balzac. Chi c'è oggi? Mamma mia, a Balzac, aiuto. Perché oggi ho letto un colonnino dal taccuino di Marcello Sordi della Stampa che mi ha colpito, incuriosito, e dove si legge di tutte le delusioni di Silvio, da Brunetta, deluso dalla Santanchè, deluso da Denis Verdini, ma alla fine del colonnino si legge qualcosa che è ben più di una notizia, è un romanzo. Oh. Quello a proposito del cerchio magico, no? Il termine che si attribuisce alle solite invenzioni dei giornalisti, no? Avete presente? Beh, racconta Sorgi che qualche giorno fa a chi gli ha chiesto, abbracciandolo, dimmi la verità, come va? Berlusconi d'un fiato ha risposto: come vuoi che stia? Avevo 1000 donne ed ero felice. Adesso ne ho una sola e mi sento prigioniero. cosa ha scritto Marcello. Dobbiamo trovare un nomignolo anche per Marcello. Marcello, fra siciliani. Se Balzac si firma con lo pseudonimo di Carmelo Lopapa, no, di più. Luigi Pirandello si firma con lo pseudonimo di Marcello Sordi. Questa mi sembra una buona strada. Uno, nessuno, 100.000. Va bene, allora, musica. Siamo in Afghanistan, lo so che a me piace volare, viaggiare, spaziare, però questa è troppo bella, Giovanni. Allora, non solo oppio esportano gli afghani, che rimane comunque la più grande industria di quel paese. Nel 2001, anno della guerra, gli afghani erano 21 milioni, i possessori di una SIM card erano appena 80.000 e una SIM card costava $250. Oggi gli afghani sono 30 milioni, gli abbonati al telefono, quindi possessori di una SIM card, sono 20 milioni, che costa un dollaro, e lo mettono su un apparecchio da circa $10 anche. E la Rosan Telecom, azienda afghana di TLC, si espande in Uganda, Burundi e Tanzania. Mario, dimmi. C'è Gianluigi da Milano che ci chiede, mi piacerebbe si sentire commenti sui 14 miliardi di perdite di Unicredit. A noi... Sì. Piccole e medie imprese revocano i fidi ai grandi insolventi e li regalano. Il caso? Vabbè, rispondo subito. Sì. Allora, le banche italiane stanno procedendo a una pulizia, tra virgolette, dei bilanci dovuta al fatto che c'è il controllo della BCE in corso sulla qualità dei bilanci di un bel po' di banche italiane. Questo controllo finisce alla fine del 2014, la Banca Centrale Europea diventerà l'unico vigilante. Stanno emergendo tutti i cosiddetti non performing loans, cioè tutti i crediti in sofferenza, e quindi da quest'anno le cose dovrebbero andare meglio, perché le banche faranno più chiarezza nei bilanci. È Mario, un percorso lungo, ma Mario, qui c'è Dario, bisogna aver fiducia. C'è Dario che si rivolge a me, ma in realtà pensa a te, perché dice: Minoli, lei ha una reputazione, ma se insiste con la Tardelli diventa buffo alla sua età. Capi, è veramente è una figlia per me, quindi diciamo Mario non so, ma per me è no, una ma figlia. Sono io che ho la fissa di Sara. Andiamo avanti, va. La saluto sempre con un ti odio. Andiamo avanti, va bene. Oggi il salamino va in treno perché ho raccolto uno straordinario cortocircuito, però non è tanto un cortocircuito, perché la notizia riferisce, la leggo sul Fatto, che Sergio Chiamparino a Susa voterebbe per la candidata SITAV, ex del PDL, perché, spiega, c'è una sinistra ideologica o post-ideologica che in Val di Susa ha sostituito la lotta di classe con la lotta al treno. Quindi e chi è interessante, però, questo sottosopra post ideologico. È il nome della sindachessa Gemma Amprino. Gemma Amprino avrà il voto di Chiamparino. Così dico. Se fosse residente. Quindi, giocando con essere democratici con i soldi degli altri, oppure quell'altra cosa con i soldi degli altri, insomma, essere ben disposti a votare, ma con un'anagrafe che sta altrove. Vabbè, però l'ha detto, dai. Sì, l'ha detto, è giusto. Sei è proprio giusto. Una cosa da diluvio. No, oltretutto lui era bravissimo. Era colmato di violenza. Dobbiamo essere distrutti. Arriva una grande inondazione. Costruiremo una nave per gli innocenti. Allora, Noa in sala dal 10 aprile è il diluvio universale, l'arca di Noè. Vi ricordo solo la Genesi. No, non alzare il dito, cosa vuoi? Com'è sta pronuncia di Noè? Noa. Quindi uno dice Noa, non sa che Noè. Noè è il titolo del film. La Genesi. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Tu, naturalmente, tranne buttafuoco. Mi raccomando. La curiosità, ma tu leggevi in chiesa? No, però abitavo a fianco alla chiesa da bambino. Sentiva. Quindi ascoltavo per forza. Canzoniere. Vai, Pietrangelo. In una giornata estremamente calda del principio di luglio, verso sera, un giovane scese in strada dalla stanzuccia che aveva in subaffitto nel vicolo e lentamente, come fosse indeciso, si avviò verso il ponte. Per la scala evitò felicemente l'incontro della sua padrona di casa. La stanzuccia di lui veniva a trovarsi proprio sotto il tetto di un alto casamento. Mix 24. Professor Simonelli, buongiorno. Buongiorno professore, come sta? Bene? Bene, sì, bene. Sì, sì. Allora, sì. Ieri sera il canone dov'era? Dunque, ieri sera, per farvi una considerazione, sono tornati i film in prima serata. Sia Rai 3 che Canale 5 presentavano due film di autori abbastanza importanti, di Söderbergh su Canale 5 e del cinese Zhang Yimou, il più grande regista cinese, su Rai 3. Due film abbastanza recenti, non nuovissimi, ma abbastanza recenti, non quei classici da televisione come Pretty Woman che si tirano fuori quando c'è da tappare un buco. Io ho questa impressione, ditemi se la confermate, che ci sia ancora un effetto grande bellezza. Cioè che dopo il botto di ascolti anche fatto dalla grande bellezza e dopo l'attenzione che si è creata attorno alla grande bellezza... Beh, una grande attenzione anche molto, molto costruita in termini di marketing, quindi sì, diciamo che quel successo è figlio del film, figlio anche di un lavoro di promozione molto intenso. Ecco, ma che ci sia stata l'idea, che il film può servire anche per fare una bella prima serata. Certo. E non è soltanto roba da tematiche, roba da usare come tappabuchi, perché si può costruire un palinsesto attorno a un film interessante. Ma siccome oggi è venerdì, vorrei lasciare anche qualche consiglio, qualche indicazione per il weekend. Ah, bene. Se la regia mi manda una canzone, vi spiego. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali. Professore, questa canzone per dirci cosa? Questo era Luigi Tenco che cantava la sigla di chiusura delle inchieste del commissario Maigret della RAI degli anni 70, un grandissimo successo. Per dirvi che cosa? Per dirvi che da tre sabati, questo sarà il terzo sabato, sulla 7 vanno in onda degli sceneggiati tratti dai romanzi di Simenon sulle inchieste di Maigret. Non è una produzione RAI, è una produzione della televisione della Svizzera romanda, quindi una certa rarità. Qualche anno fa, tant'è vero che sono interpretati da Bruno Kremer, un grandissimo attore che ora non c'è più, ma che, scusate, se siete falsi. No, professore, intanto mentre lei fa fare l'annuncio, io le dico che qui ci dicono che ieri sera il canone era indubbiamente anche sulla 7 con servizio pubblico. Puntata straordinaria da non perdere, lei l'ha vista, d'accordo? Ah, sugli F-35. Io non l'ho visto perché guardavo i film. Neanche una. Vabbè, noi lo segnaliamo. Intanto abbiamo Elvis da Bari per la risposta al nostro canzoniere. Elvis, buongiorno. Buongiorno a voi, è un piacere parlarvi. Grazie. Che cosa ha pensato? Allora, sentivo un profumo di grandi narratori russi, pensavo a Dostoevskij, Delitto e Castigo. Ma bravissimo! Giusto! Un Feltrinelli! Complimenti, a Bari, che tempo fa, Elvis? C'è un sole splendente, ma quanti gradi? Nuvoloni vivaci. Quanti gradi? Una quindicina. Ah, va bene. Grazie. Allora... Sottolineo la frase, sole splendente, nuvoloni vivaci. Cioè, quindi not non bad, sappiamo non bene male. Come va a finire. Si vede che ha letto dottore. Si vede che ha letto Fyodor. Professore, è partito il treno, come stiamo lì? Sì, sono partito. Volevo farvi un'ultima segnalazione, perché ieri sera so che ci sono gli affezionati al servizio pubblico, ma gli affezionati al servizio pubblico si perdono il musicchione, cioè il programma di Elio e le storie tese, che ieri sera era anche rallegrato dalla presenza di un grande artista. Professore, continua a fischiare il treno lì, non riusciamo a sentirlo. Purtroppo, vabbè, la saluto e le auguro buon viaggio. Stavo parlando di musica e la sentiamo. Grazie. Meraviglioso. Senta, a proposito di consigli per il weekend, tutte le domeniche va in onda il programma di Licia Colò e Sara Tardelli l'ha intervistata. Licia Colò, lei conduce Kilimangiaro come piccolo il mondo ormai dal 1998, ma qual è il segreto per riuscire ad essere apprezzati dal pubblico per tutti questi anni? Sicuramente la coerenza, la trasparenza e il tentativo di rinnovamento che c'è stato di anno in anno, anche con collaboratori diversi. Credo che oggigiorno la sfida sia quella di essere sempre attuali e noi ci proviamo. Ad esempio con le inchieste sui beni culturali violati? Assolutamente sì, abbiamo inserito questo spazio perché parlare di mondo non significa certo trascurare l'Italia. L'Italia è risaputo, è un museo a cielo aperto, però è triste vedere come il nostro patrimonio venga trascurato. Che cosa emerge da queste inchieste? Qual è la cosa che torna più spesso? La cosa più triste è che c'è uno scaricabarile mostruoso, sempre colpa di qualcun altro ed è sempre colpa del fatto che i soldi non ci sono. Però poi molte volte, andando a vedere, andando a scavare un pochettino, si scopre che i soldi ci sarebbero anche stati, ma la burocrazia è una delle ancore del nostro paese che ci impedisce di muoverci. C'è anche come novità il borgo più amato dagli italiani. Sì. Come funziona questa rubrica invece? È un format francese, l'abbiamo ridimensionato, abbiamo sempre nel tentativo di far conoscere il nostro paese, ogni settimana proposto un borgo di una regione italiana. Esatto, abbiamo... ci sono ancora dei luoghi sconosciuti, insomma. Diciamo sconosciuti ai più, ci sono dei borghi medievali di rara bellezza, nord a sud, che alla fine purtroppo molte volte sono semi-abbandonati. Dalla sua lunga esperienza, lei ritiene che oggi gli italiani siano un po' più consapevoli delle bellezze del nostro paese oppure no? Questa è la domanda delle 100 pistole. Voglio dire di sì, una questione di ottimismo. Siamo forse più consapevoli, però siamo anche più arrabbiati, ma non è sufficiente essere arrabbiati. Ad esempio dei francesi io copierei il fatto che loro hanno un grande senso di patria e quindi visitano molto i loro posti, li tutelano. Per me in Italia noi non abbiamo questo senso di unione. Lei ha sempre fatto programmi sul mondo degli animali e sulla natura, ma sì. Da dove nascono queste sue passioni? Forse sono nate con me queste passioni, fin da piccolina ero molto legata alla natura, agli animali, mi è stato sicuramente insegnato anche dai miei genitori. Io credo che ognuno nella vita debba scegliere qualcosa a cui dedicarsi con amore e con passione. Le cose principali della mia vita sono la tutela e la difesa per quel che mi è possibile dell'ambiente e degli animali. Riceviamo moltissimi sms, purtroppo ne possiamo leggere solo pochi perché spesso non sono firmati e quelli firmati naturalmente non hanno nessun valore, però uno ci ha colpito, è Bianca che ci scrive: ho 71 anni, ho la terza media, peccato capisco solo l'80% delle cose che dite. Cercheremo di fare più attenzione e di essere più chiari, grazie Bianca. Il 24 marzo del 1980 a El Salvador, nel Centro America, il vescovo Oscar Romero viene ucciso con un colpo di fucile mentre celebra la messa. Su Mix24 la storia a cura di Marina Milone, la storia di un uomo, di una conversione, di un martire. In chiusura ne parliamo con Monsignor Vincenzo Paglia.